Napoli, il nostro gran campione, testa alta verso il sole ed un grande cuore. Eccola lì, l'ennesima salita, la più difficile, la più infinita. Hai provato a superarla col tuo grande ardore, ma ti hanno ucciso con l'inganno, senza anima né cuore. Allora vai, pirata, vai, lungo la strada che sembra infinita. Vai, pirata, vai, quante emozioni hai regalato e ci regalerai, anche se non ci sei, i nostri cuori per sempre rimarrai. Questa canzone perché è un fiuto eccezionale, per le sfide e le delusioni che fanno tanto male. Questa canzone per quelli come noi, che non ci arrendiamo mai e troviamo sempre i guai. Questa canzone è sì per te, campione, sguardo dritto verso il sole, e allora vai, campione. Lungo la strada della vita, vai, pirata, vai, quante emozioni hai regalato e ci regalerai, anche se non ci sei, nei nostri cuori, pirata, rimarrai.